La Zanzara. Bene, gentili ascoltatori, 1917 800 24 0024 per chiamarci in diretta, sms 349 238 6666, la zanzara @radio24.it per scriverci una mail, tg3. Rapito in Egitto un gruppo di turisti, 5 sono italiani, giallo sulle voci di un riscatto e di un rilascio non confermato dalla Farnesina. L'ente di aviazione civile, senza un nuovo piano per Alitalia, stoppa i voli, pubblicato il nuovo bando, si fanno avanti i piloti e una società svizzera. La strage di Castel Volturno, fermato un uovo vicino al clan dei Casalesi, contro il clan della Camorra arrivano 400 poliziotti. A Trapani un ragazzo marocchino di 17 anni denuncia i suoi aguzzini, lo obbligavano a spacciare droghe e a rubare, 10 arresti. In Cina cresce lo scandalo del latte alla melamina, 53.000 bambini intossicati, si dimette il capo dell'agenzia dei controlli. Da domani in pub e discoteche affisse le tabelle per calcolare il tasso alcolico, indicheranno quanto si può bere prima di mettersi al volante. Dopo 85 anni chiude il mitico Yankee Stadium di New York, un pezzo di storia americana, al suo posto sorgerà un mega parcheggio. Allora, questi erano i titoli principali del TG3. A parte la vicenda Alitalia, c'è da registrare ancora notizie su notizie dell'incredibile crack di Catania, città amministrata dal centrodestra ormai da diversi anni, addirittura per due mandati dal medico di Berlusconi Scapagnini, Umberto Scapagnini. Leggo da un titolo del Corriere della Sera di sabato: vigili a piedi e via al buio a Catania sull'orlo del crack, sperperi organici gonfiati, il sindaco si appella al premier per mettere altri soldi ma sembra che siano solamente degli anticipi su soldi che Catania deve comunque avere, sospeso il capo del personale che ha premiato i dirigenti perché nello stesso tempo il capo del personale aveva dato soldi in più ai dirigenti. Cosa c'è da registrare poi? Sempre dal weekend c'è da registrare il fatto che finalmente Bossi, seppur timidamente, ha preso posizione contro Borghezio. Insomma, non è che ha detto Bossi ogni volta che mi invitano in qualche raduno io ci vado, e Bossi ha detto insomma io a un raduno del genere come quello cui è andato, è stato poi un mezzo flop Borghezio in Germania, raduno in cui c'erano anche neonazi eccetera eccetera, non ci sarebbe andato, e ha bacchettato anche se in maniera molto leggera Borghezio. Sky TG24. 5 turisti italiani rapiti in Egitto, altre voci sulla liberazione. All'Italia ufficiale la revoca dell'offerta CAI, entro 4 giorni aerei fermi. Parlano i piloti, subiamo pressioni psicologiche, sicurezza a rischio. Bagnasco al consiglio della CEI, no all'eutanasia e all'intolleranza verso gli immigrati. Camorra a Castel Volturno, c'è un arresto per la strage degli africani. Trapani, 17enne spacciatore si ribella e fa arrestare i suoi aguzzini. Incidenti sul lavoro, tragedie nel Veneziano e sulla A1 a Ponte Corvo. Vendita di alcolici, da domani obbligatorio esporre le tabelle nei locali. Latte contaminato, sempre più allarme in Cina, 50.000 intossicati. Formula 1 rinviata a domani il verdetto della FIA sul ricorso di Hamilton. Bene, eccoci qui, 800 24 0024. La cosa più clamorosa di oggi, non c'è dubbio, sempre sulla vicenda d'Italia, la possiamo ascrivere tranquillamente nel non ci posso credere. Non ci posso credere! Non ci posso credere! Come si fa a credere una cosa di questo tipo? Fabio Berti, che è una persona seria, insomma, è una persona che sentiamo ogni giorno in televisione, dappertutto, in tutti i talk show radiofonici, televisivi, sarà ospite anche questa sera alla prima puntata di 8:30 condotta da Lilli Gruber. Insomma, Fabio Berti, che è il principale sindacalista dei piloti, dice: siccome i piloti sono pressati da questa vicenda e la sicurezza è a rischio, sentite. Mi sembra che qualcuno voglia invece creare un'azienda che va esattamente al contrario, che crea delle forme di pressione gravissime sui piloti, tale poi da andare ad intaccare quella percentuale delle forme di depressione, di pressione, pressione psicologica sui piloti, che poi portano, chiunque studia la sicurezza del volo, anche nell'analisi degli incidenti, più del 60% degli eventi. Cioè, mi scusi, lei mi sta dicendo che Si potrebbe arrivare ad una tale pressione sui piloti da ingenerare certamente un incidente aereo? Certamente sì, perché questo tipo Gesù, di contratto... No, beh, ma speriamo di no, infatti. Sì. Io sono esattamente qui a combattere... Non per niente, ci siamo noi a bordo oltre ai piloti. E infatti direi che vi dovete preoccupare, perché questo tipo di pressione alla quale sono sottoposte le categorie dei piloti oggi... E la direzione in cui si vuole andare è strettamente legata a questa questione, per cui tutti si dovrebbero preoccupare. Non so se avete sentito bene, tutti si dovrebbero preoccupare perché i piloti potrebbero essere stressati oggi e anche successivamente. Pressioni eccessive sui piloti potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza. Insomma, ripeto, l'abbiamo già detto prima, tutti i piloti allora delle compagnie low cost dove si lavora di più, con orari certamente più stringenti, dovrebbero protestare per la sicurezza, eppure non è che cadano 40 aerei al giorno low cost. Ma così vanno le cose in questo pazzo mondo di Alitalia, e andiamo a che cosa? Alla questione del fallimento, la parola impronunciabile da parte dei politici italiani. Si ha paura a dire l'Alitalia potrebbe fallire, o comunque si ha paura a dire il fallimento è la strada giusta. Lo stesso Emilio Fede, l'abbiamo preso al volo dal TG di questa sera delle 19, il TG4, prospetta una situazione da terzo mondo nel caso in cui l'Alitalia fallisse. Io devo dire, da cittadino, da utente anche all'Italia, compagnia che ho sempre apprezzato, mi chiedo come si può arrivare al fallimento della compagnia, al blocco degli aerei, alla confusione totale che ci sarebbe, non soltanto per la sorte futura dei 20.000 dipendenti, qualcuno ha parlato di 60.000 famiglie che si troverebbero quasi sul lastrico, e poi naturalmente quello che potrebbe riguardare, che riguarderà il traffico aereo in generale. Le 60.000 famiglie sul lastrico, per carità, nessuno vuole mettere in dubbio le difficoltà, è successo in altri paesi, non se ne è fatto un dramma, oppure ci sono drammi personali come succede in qualsiasi azienda che non funziona. Ipocrisie sindacali, perché ipocrisie sindacali? Iniziamo con Luigi Angeletti. Luigi Angeletti è il segretario della UIL, come sapete, anche lui presente ormai sulla scena da una ventina d'anni a fare dichiarazioni, ospite di talk show eccetera eccetera, una protagonista anche delle trattative sindacali in cui Air France alla fine se ne andò, cioè è stato uno di quelli che non voleva Air France. Adesso Angeletti, che è uno di quelli invece che ha firmato la proposta CAI, parla naturalmente a ruota libera, invitato da tutti, e sentite cosa ha detto al TG4 di questa sera. Io mi sono fatto una convinzione, la trattativa è fallita perché una parte consistente dei lavoratori dell'Alitalia non crede che siamo sull'orlo del fallimento. Uno può rimanere sconcertato, certo, di questo fatto, ma è questa. Il vero problema è questo. Le dichiarazioni che alcuni dirigenti sindacali stanno facendo in questi momenti rilevano, appunto, un po' da farsa, certo, quanta questa convinzione non ci sia. Pensano sul serio che ci sia il mago Zurlì, certo, e improvvisamente il principe azzurro che viene e si prende l'Alitalia, certo, perché sono le stesse persone, sono quelle che hanno detto a 8-9 piani sempre di no, proprio perché pensavano che poi ci sarebbe stato qualcun altro che ne avrebbe presentato uno migliore, solo che non si sono accorti che purtroppo la realtà è quella che è. A parte il mago Zurlì, tra quelle persone che hanno sempre detto di no, però c'è anche Angeletti, bisogna ricordarlo ad Angeletti stesso, forse ci si metteva da solo in questa lista, perché non mi risulta che Angeletti sugli altri piani di ristrutturazione dell'Alitalia abbia espresso pareri favorevoli. E va bene, le cose vanno così, sempre ipocrisie sindacali di continuo. Epifani, ieri ospite da Lucia Nunziata in mezz'ora, il quale dopo aver rifiutato Air France dice invece che gli stranieri adesso sono i benvenuti, incredibile, sentite. Se la CAI non ritorna in campo, non si può far fallire l'azienda e va trovato ogni alternativa possibile. Ed è evidente che i grandi vettori internazionali sono interessati. Può essere interessata Lufthansa. Siccome noi non siamo i teorici dell'italianità della proprietà, ma degli interessi nazionali sì, se ci fosse anche una soluzione non italiana, con una presenza nel capitale italiano e con gli interessi italiani tutelati, di quel livello e di quella portata, io dico che si può provare a farla. Non sono contro la CAI, ma voglio uscire dall'angolo in cui il fallimento di una proposta ci lascia senza altre proposte. Senza altre proposte, questo Epifani, ieri da Lucia Annunziata, ripeto, lo stesso Epifani che aveva detto no ad Air France pochi mesi fa. a marzo, ma insomma è davvero una commedia senza fine e anche un po' farsesca, diciamo la verità. Gli stessi piloti che dicono di sì lo dicono con questi cori che sentirete fra poco. Oggi c'è stata una piccola marcia, alcune riunioni, manifestazioni a Fiumicino, c'è un gruppo di piloti iscritti ad altri sindacati, no all'ANPAC oppure all'ANPAC, non lo so, non mi interessa, i quali invece si dicono pronti a firmare l'accordo perché magari vedono la disoccupazione, e però lo dicono in questo modo, tanto da far piombare, se già non c'era piombata, la vicenda d'Italia, diciamo, nella farsa più assoluta, in cori da stadio, francamente inaccettabili, inappropriati. Il livello è questo, come avete sentito. Bene, gentili ascoltatori, 19:33 minuti, 800 24 00 24. Un geniale SMS di un ascoltatore ci fa ripiombare in quelle polemiche che davvero non si dovrebbero mai aprire, perché c'è la mania un po' in Italia di incasellare le persone in un partito politico, in un'azienda, in questo caso in Confindustria. Che la radio di Confindustria attacchi i sindacati mi sembra banale, faccia lo sforzo, in questo caso l'ascoltatore si rivolge a me, di essere altrettanto critico con governo, politica e impresa. È davvero geniale questo SMS, non fosse che noi facciamo critiche un po' a tutto campo, ma insomma l'ascoltatore è così, critica anche una piccola frase, un 5 minuti di trasmissione, e incasella soprattutto i conduttori, i giornalisti in uno schema prefissato, in uno schema scontato. Va bene. 800 24 00 24. A proposito invece di Catania e di Berlusconi, geniale, geniale disegno, chiamiamolo così, manifesto di Sergio Staino sul supplemento satirico dell'Unità. C'è un Berlusconi vestito da diavolo, con tanto di fuoco che esce dalla bocca, con la coda di un diavolo, il più amato dagli italiani, sempre giovane, sempre pronto, sempre ritto. 62% di gradimento, quello degli ultimi sondaggi, e poi nella parte bassa di questo manifesto a colori un successo della Prodotti Chimici Scapagnini Catania, non solo Viagra. Geniale Staino sul supplemento satirico dell'Unità. Andiamo agli ascoltatori immediatamente e andiamo a Napoli da Antonio. Buonasera. Buonasera dottor Cruciani, la ringrazio che mi dà questa possibilità. Io, come ha detto lei, sono un lavoratore di Napoli, dell'Atitec, che è l'azienda che si occupa di manutenzioni pesanti per l'Alitalia da circa 20 anni, prima con l'Atica, la vecchia compagnia aerea meridionale che poi venne assorbita nel 1980 dall'Alitalia. Noi a Napoli non abbiamo certamente festeggiato quando c'è stata, diciamo, la rottura delle trattative, perché voglio ricordare ad Angeletti, ho sentito prima e tra l'altro lo sottolineava lei con la sua obiettività che le riconosco da sempre, che non deve dimenticare che il tavolo delle trattative l'altra volta, diciamo, il primo sindacato ad abbandonare la trattativa è stato proprio la Will Trasporti. Noi poi un'altra cosa che voglio dire è che si parla tanto, diciamo, di privilegiati del gruppo Alitalia. Noi certamente non siamo tra questi, noi abbiamo stipendi che si aggirano tra i 1.000 e i 1.500 euro. I 1.500 euro, il tetto massimo, riguarda lavoratori con 20 anni di azienda, con le maggiorazioni notturne. No, ma non c'è dubbio che la questione Atitec è stata sempre un po' al margine delle trattative, non è stata mai particolarmente frequentata, diciamo, dai giornalisti, dalle cronache, dai commenti, no? Ma infatti su questo quello che voglio dire è che in effetti nelle scelte industriali di CAI c'è una carenza, perché tutte le compagnie aeree, intanto se hanno degli attivi è perché, insomma, sono dovute anche a scelte industriali, soprattutto per quanto riguarda il pezzo di collegamenti di lungo raggio. Lei sa bene, ha avuto modo di affrontarlo, cioè sì, però l'Italia volevo sapere, Antonio, mi scusi, volevo sapere una cosa, Antonio, perché anche i lavoratori di Atitec, da quello che ho letto, sono contrari all'ipotesi della CAI, mi perdoni, mi dica perché. Noi siamo, non è che siamo contrari, anzi alla fine noi come lavoratori Atitec, nonostante facevamo un passo indietro, nel senso che uscivamo dal famoso perimetro, no? Ormai sì, certo, la tecnologia certo. acquisita, uscivamo fuori dal perimetro e andavamo a formare un'ennesima new co, perché l'Atitec già è una società, cioè già sì, allora andava in questa linea, c'era diciamo un problema reale che noi ponevamo, che doveva essere di collegamento con questa compagnia, perché volevamo continuare a fare le attività che per anni abbiamo svolto, garantendo gli standard di efficienza e di sicurezza che continuiamo a mantenere. Vabbè Antonio, adesso la questione si fa più la questione si fa complicata perché non possiamo metterci a parlare di Atitec per tre ore. Non ho ancora capito perché i lavoratori della Atitec fossero contrari a questa ipotesi della CAI. C'erano mi sembra anche delle manifestazioni di interesse non da parte di CAI, di altri soggetti sulla Atitec di Napoli, ma insomma la questione Atitec è molto complicata. Paolo da Milano, buonasera. Paolo, mi sente? No, sento battere il computer o qualcosa del genere. Lamberto da Grosseto, prego Lamberto. Buonasera, io avrei essenzialmente due domande da fare perché tengo a un suo commento. Domanda numero uno, mi chiedo per quale motivo la CGIL continui a boicottare la trattativa dell'Alitalia, sapendo che tre quarti dell'economia italiana si basa sulla piccola media impresa, nella quale io da quando mi sono laureato faccio sempre parte e per già ancora ho lavorato in una grande distribuzione organizzata dove non ci sono regole, dove ho fatto il capo area, dove io stesso non lavoravo in termini di sicurezza. Ho chiesto spesso l'intervento del sindacato e il sindacato non era mai costruttivo, era sempre in tono polemico e poi mi diceva sempre, io vivendo in un territorio molto piccolo dove non ci sono investimenti, mi diceva non possiamo fare altrimenti perché l'azienda già investe con supermercati e con negozi, non possiamo mettere i bastoni tra le ruote. E questa è una domanda a cui io non ho mai trovato una risposta, perché mi sembra siano comportamenti da anni 70. La domanda numero due è che spesso ho trovato e ho sentito su un'intervista a una persona della Confindustria, mi scusi che non me lo ricordo, su Radio 24, era riferita al fatto della contrattazione nazionale, cioè che va di moda abolire il contratto nazionale. Io faccio presente che la struttura dell'Alitalia è abbastanza anomala, in realtà come nella nostra zona, soprattutto in Toscana, si lavora sulla piccola e media impresa. Togliere la contrattazione nazionale significa dare all'imprenditore un potere smisurato e ricordo anche chi sostiene questa tesi che ci sono i contratti a progetto. Io ho fatto con l'apprendistato il capo area, quindi se si vuole incentivare una persona a lavorare di più, gli strumenti ci sono assolutamente. Il problema è che spesso gli imprenditori vogliono manodopera low cost, non incentivano il neolaureato, la persona brillante, e vogliono solo persone che dicono di sì o comunque persone che non sono in grado di avere un rapporto col lavoro meritocratico. Mi sembra una visione piuttosto semplicistica di quello che è il mondo del lavoro oggi, piuttosto riduttiva, però insomma è la sua visione del mondo del lavoro, dell'atteggiamento che hanno i cosiddetti padroni nei confronti dei lavoratori, e ce la pigliamo così com'è. Lamberto, senza commentarla, la ringrazio. Nazareno da Salerno, buonasera. Oh, buonasera dottor Cruciani, è un piacere ascoltare a lui. Prego, volevo dica. Dirle, io sono un paramedico e ho ascoltato parecchie volte su quella richiesta che ha fatto il ministro Brunetta sul curriculum dei medici. Sì. Io per questo parere le sono favorevole al ministro, però il ministro dovrebbe chiedere anche il curriculum del personale paramedico, dei caposali, dei coordinatori, perché io le posso garantire, io ho 46 anni ospedalieri, sì, tra cui anche mamma e papà, ci sono ingiustizie, cioè la giustizia poi da parte mia fare politica sulla sofferenza e sul malato. Sì, ma lasciamo perdere questo, Nazareno. No, lei dice è favorevole alla pubblicazione, alla trasparenza sui curriculum dei medici e poi. Però dovrebbero fare anche la stessa, la trasparenza e il curriculum sul personale. E ripeto, secondo me io ho dei dubbi. Nazareno, ho capito. Io ho dei dubbi. Perché le posso. No, ho capito, Nazareno, però dobbiamo dare spazio anche agli altri ascoltatori. Se vuole prosegua, però insomma, bisogna anche stringere ogni tanto negli interventi. Io credo che, come abbiamo detto prima, il curriculum non è che sia sufficiente per capire se uno è bravo o no. Sui medici è molto difficile, almeno secondo me, figuriamoci per gli infermieri o per altro tipo di personale. Bene, Mario da Padova, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Prego, dica. Una riflessione molto veloce. Io condivido la perplessità di quelli che sono rimasti esterrefatti quando hanno visto le celebrazioni a Fiumicino. E mi chiedo se fosse, se sia veramente il caso di approfondire il perché ci sono state queste celebrazioni, come suggerivano i due sindacalisti. Tra l'altro uno ha dato anche la risposta, probabilmente questa gente non capisce. Lei è un esponente dell'informazione, mi chiedo se forse l'informazione non gioca un ruolo in questo, e mi spiego. Si parla del salvataggio dell'Alitalia, ma io sono un dirigente d'azienda, ma non vedo nessuna informazione chiara e comprensibile che spieghi veramente il perché Alitalia perde e soprattutto che faccia capire chi sono i banditi, cioè se i banditi sono quelli che vogliono salvare un'azienda attuando dei piani industriali o quelli che bruciano 2,36 milioni di euro al giorno, perché probabilmente se si facesse più chiarezza su quelli che sono i conti di un'azienda, o quello che era un'azienda, perché in questo momento non credo si possa definire un'azienda un'organizzazione che brucia 2,36 milioni di euro, probabilmente si capirebbe che esuberi del personale non sono delle maledizioni che vengono dal cielo o un accanimento contro il povero lavoratore vessato, ma si tratta semplicemente di porre fine a delle azioni e a delle situazioni che sono generate nel tempo dovute a un management disastroso. Sì, guardi Mario, naturalmente qui siamo di nuovo alla storia di Alitalia. Io non credo che ci sia stato però in questo caso un deficit di informazione soprattutto sulle cause dell'Italia. Magari c'è stato nel passato un deficit di informazione, ma ormai è un anno, due anni che si parla continuamente di Alitalia e io credo che il grande pubblico, chi si vuole informare sull'Alitalia e sulle cause del dissesto, abbia avuto tutti gli strumenti a disposizione, giornali, internet, qualsiasi cosa. Ormai le cause del dissesto, libri in alcuni casi, non moltissimi, però ce ne sono alcuni, tutte le cause del dissesto dell'Italia sono lì sul tavolo e non è nemmeno troppo difficile documentarsi da questo punto di vista. La ringrazio. Pietro Ichino, buonasera. Buonasera. Senatore del Partito Democratico, le faccio ascoltare, senatore Ichino, quello che ha detto oggi. Secondo me, adesso non voglio esagerare per carità, però è abbastanza grave. Il capo dei sindacalisti, dei piloti, l'ANPAC, Fabio Berti, presente praticamente in ogni dove, in trasmissioni televisive, talk show, eccetera, eccetera. Ogni tanto l'abbiamo anche sentito dire, beh, non c'è molta informazione sulla trattativa in corso, almeno con pudore bisognerebbe dire, forse non sono in grado io di darla perché è presente ovunque. Comunque, a parte questo, oggi Berti ha detto una cosa secondo me abbastanza grave, ripeto, cioè lo stress che i piloti subiscono in questo caso, le pressioni per il contratto potrebbero avere conseguenze sulla sicurezza. Mi sembra che qualcuno voglia invece creare un'azienda che va esattamente al contrario, che crea delle forme di pressioni gravissime sui piloti, tale poi da andare ad intaccare quella percentuale delle forme di depressione, di pressione psicologica. Pardon. Sui piloti, che poi portano, chiunque studia la sicurezza del volo anche nell'analisi degli incidenti, più del 60% degli eventi, cioè, mi scusi, lei mi sta dicendo che si potrebbe arrivare ad una tale pressione sui piloti da ingenerare un incidente aereo? Certamente sì, perché questo tipo Gesù, di contratto... No, beh, ma speriamo di no, infatti. Io sono esattamente qui a combattere... Non per niente, ci siamo noi a bordo. Bravo, piloti. E infatti direi che vi dovete preoccupare. Bene. Perché questo tipo di pressione, alla quale sono sottoposte le categorie dei piloti oggi, e la direzione in cui si vuole andare, è strettamente legata a questa questione. Per cui tutti si dovrebbero preoccupare. Ora, professor Ichino, va bene tutto in questa trattativa, il braccio di ferro, però insomma, mi sembra abbastanza incredibile. Direi proprio che questo non va bene, una grave mancanza, caduta di stile, ma anche mancanza di professionalità che si manifesta in questa dichiarazione, perché qualsiasi serio professionista deve essere in grado di garantire la perfetta e piena qualità della propria prestazione professionale indipendentemente dalle circostanze contrattuali di contorno. Questo vale per i piloti come vale per i medici, i chirurghi, gli avvocati, chiunque abbia affidato alle proprie mani la vita e la sicurezza di altre persone, e quindi direi proprio che dobbiamo cancellare questa dichiarazione o archiviarla come una manifestazione di una degenerazione del di quella che può essere una dialettica sindacale anche dura, ma che non deve mai incidere sulla appunto sulla qualità professionale della prestazione, assolutamente, del rapporto di lavoro. Assolutamente, perché insomma qui si vuole comunicare alla pubblica opinione che se non si accontentano nelle loro richieste i piloti potrebbero sorgere problemi di sicurezza sugli aerei. Questo certamente non è bello. Lei non è un politico di professione, Ichino, però sa perfettamente come la politica usa le parole nella comunicazione. Ora, perché non c'è politico che non dica apertamente, anzi, non c'è politico che non dica bisogna evitare il fallimento? Perché la parola fallimento fa così paura in Italia? Diciamo che il fallimento è un'opzione possibile, lo era in passato, probabilmente avrebbe dovuto essere presa in considerazione molto di più di quanto non lo è stato, anche perché il fallimento è una vicenda della società, una vicenda societaria che può benissimo conciliarsi con una perfetta continuità dell'attività aziendale. Il giorno stesso della dichiarazione del fallimento, se le cose sono preparate e gestite bene, il giudice fallimentare può dare in affitto l'azienda a un imprenditore disposto a continuare l'attività e poi con i tempi necessari della procedura fallimentare procedere alla gara di vendita dell'azienda, e a cui naturalmente l'imprenditore affittuario può partecipare insieme a tutti gli altri. Questo non comporterebbe nessuna interruzione del servizio e avrebbe potuto essere fatto, anzi probabilmente sarebbe stato bene che questo venisse fatto nel 2004, per esempio, nel 2005, sì, quando già la situazione era sostanzialmente fallimentare. Il problema è che sulla vicenda Alitalia hanno giocato molte preoccupazioni dette e non dette, e anche questa sciocca preoccupazione di difendere l'italianità dell'azienda in una situazione in cui invece l'obiettivo doveva essere di inserire questa azienda in un contesto aziendale più ampio gestito da un grande vettore internazionale, e questo oggi ormai lo riconoscono tutti, lo riconosce anche Berlusconi, e tutti dicono, e lo riconosce lo stesso Colaninno, capo dell'accordata CAI, che dicono il futuro dell'azienda non può prescindere dalla alleanza, inserimento in un contesto aziendale di un grande vettore internazionale. Senta, lei nei giorni scorsi ha detto una cosa abbastanza interessante e che vale la pena approfondire anche se per pochi istanti. Niente aiuti statali a chi rifiuta il lavoro. Ora, messa così sembra piuttosto drastica, però lei dice chi rifiuta un contratto regolare... Non è drastico affatto, è la legge che lo dice. Cioè, mi spiega. La legge italiana, come la legge di tutti i paesi moderni, dice che la cassa integrazione guadagni o i trattamenti di disoccupazione ordinario e speciale possono essere erogati soltanto al lavoratore che non rifiuti un'occasione di lavoro professionalmente adeguata alle sue capacità. È solo il malcostume, è solo l'incapacità pratica delle amministrazioni italiane di attuare quel che prevede la legge che fa sì che in Italia si eroghi la cassa integrazione o il trattamento di mobilità per mesi, persino anni, senza che ci sia nessun controllo sulla disponibilità dei lavoratori. E quindi questo può far sì che dei lavoratori facciano conto sulla quel trattamento, quel sostegno del reddito, nonostante il rifiuto di un'offerta di lavoro che invece è congrua rispetto agli standard nazionali e internazionali, come quella di CAI. CAI è una soluzione, la compagnia aerea italiana creata diciamo per iniziativa del governo, capitanata da Colaninno, È una soluzione che ha tanti difetti e limiti gravi sul piano del diritto commerciale, sul piano del diritto comunitario, del diritto antitrust, sono quelli di cui stiamo discutendo in questi giorni. Però sul piano del diciamo lavoristico, del rapporto di lavoro, quello che diciamo l'impianto contrattuale che CAI offre ai suoi futuri dipendenti non è per nulla disprezzabile, e certo non diciamo comporta delle grosse correzioni rispetto al contratto precedente, a quello che era il trattamento preso dall'Italia, però queste correzioni avrebbero in parte dovuto già essere apportate da anni e comunque in queste condizioni è molto ragionevole che vengano proposte e apportate. Quindi sul piano del mercato del lavoro l'offerta di CAI non è un'offerta indecente, non è un'offerta che possa essere diciamo squalificata come irricevibile, assolutamente. Certo. E questo dovrebbe, se fossimo in Danimarca o in Gran Bretagna o in Germania, comporterebbe che il lavoratore che rifiuta questa offerta non ha diritto, liberissimo ovviamente di rifiutarla, certo, ci mancherebbe, ma se la rifiuta non può pretendere il sostegno del reddito. La ringrazio senatore Ichino, buona serata. Altri spunti per i vostri interventi? Secondo il senatore Ichino, la legge stessa prevede, ma nessuno poi fa i controlli, che chi rifiuta una proposta di questo tipo, cioè naturalmente una proposta che sia nel perimetro della legge, poi non possa ricevere i sussidi di disoccupazione, la cassa integrazione, la mobilità, eccetera, eccetera. Bene, 19:57 in questo momento, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Abbiamo diversi ascoltatori in linea, riprenderemo fra pochissimo con Paolo da Milano, poi c'è Luigi da Verona, Gaetano provincia di Treviso, Claudio da Roma. Alcuni ci chiedono di nuovo la sigla, anzi lo spezzone dell'aereo più pazzo del mondo, a commento delle frasi di Berti, davvero incredibile, di oggi. La sicurezza è in pericolo perché i piloti sono stressati dalla questione del contratto. TG5. Giallo su 5 turisti piemontesi rapiti al confine con il Sudan insieme a 5 tedeschi e un romeno. Alcune fonti parlano di liberazione avvenuta, la Farnesina non conferma. L'ENAC avverte, svolta o dal 30 settembre aerei all'Italia a terra. La CAI ritira ufficialmente l'offerta. I piloti cercano una nuova cordata. Ci vuole buon senso per risolvere la crisi all'Italia, dice il governo. Il cardinale Bagnasco ai vescovi: in Italia c'è troppo pessimismo sia ad un sistema fiscale basato sul quoziente familiare, sull'immigrazione necessarie risposte sempre civili. C'è un arresto per la strage di africani a Castel Volturno, è un presunto affiliato al clan dei Casalesi che era agli arresti domiciliari. Domani la decisione sull'invio di 1000 soldati. Dopo il TG riparte la grande avventura di Striscia la Notizia con Greggio e Iacchetti, le nuove veline Costanza e Federica. Bene, bene, bene, questo era il TG5. Avete sentito l'arresto per la strage di Castel Volturno, le questioni che riguardano la camorra, il rapporto con il territorio dei ghanesi, eccetera, eccetera. Ne abbiamo lette di tutti i colori, ascoltate di tutti i colori negli ultimi giorni. Un articolo di sabato su Repubblica, poi magari non bisognerebbe dare nemmeno troppa importanza agli articoli, ma tant'è, credo a firma di Giuseppe D'Avanzo. In questo articolo si facevano diverse considerazioni. Tra queste considerazioni, una strage di camorra, una lotta per il controllo del territorio a Castel Volturno si trasformano in una requisitoria sul razzismo e contro il governo. Prima del TG1 voglio ascoltare un paio di ascoltatori, voglio sentire le voci di chi ci chiama. Paolo da Milano, eccoci qui Paolo. Buonasera. Buonasera. Io interverrei su Radicale, perché tanto ormai la seguiremo. Ormai la seguiremo fino all'ultimo questa vicenda, sì, una bello, never ending bello, story. È bello vedere i carri armati intorno al bunker e questi che danno ancora ordini alle eserciti che non esistono più di resistere fino all'ultimo. Oppure le guerre, le guerre tra i dipendenti sono spettacolari, sì, no, con i cori e tutto. C'è proprio il quadro di Berlino nel momento degli ultimi giorni in cui ancora continuavano a dare gli ordini a eserciti che non esistevano più. 2700 piloti contro 100 aerei scarsi, perché sono 100 aerei scarsi, quindi praticamente c'è un rapporto di 27 piloti ad aereo. E poi di questi qui c'è da vedere quanti possono avere la benzina a questo punto. C'è l'Italia a cargo che sono 120 piloti contro 5 aeroplani. Ora io non sono un genio, non rischio nemmeno il Nobel. mi auguro che, cioè, però voglio dire, se qualcuno si mette con la calcolatrice 120 piloti conto 5 aeroplani cargo, voglio dire, mi spieghino a cosa servono tutti questi piloti. Cioè, allora, l'Alitalia degli italiani, prima di questi piloti. Questi piloti qui pensano di essere ai tempi di Francesco Baracca, di avere chissà quali competenze, chissà quali conoscenze. Nessuno mette in dubbio che sicuramente guidano dei mezzi particolari, nessuno lo mette. Però, voglio dire, non sono dei supereroi. Cioè, questi hanno visto troppi film, Airport 75, 76, queste cose qua. Ma chi prendono in giro? Ma chi vogliono prendere in giro? L'Alitalia ce la riprendiamo noi italiani. Non 2700 piloti proprietari dell'Alitalia, ma il no, ce la riprendiamo noi, speriamo di no, insomma, perché di rinazionalizzazione si è parlato e per fortuna qualcuno ha posto fine anche alle discussioni, anche oggi il senatore a vita Cossiga, il presidente Cossiga, in un'intervista ha detto "bah, forse verrà rinazionalizzata fino a domani", naturalmente poi. No, ma io quello che voglio dire, l'Italia alla fine è proprio degli italiani, ma sì, no, in questo senso è vero, in questo senso. Cioè, è veramente, invece questi piloti qui, ma non solo i piloti, perché anche gli assistenti di volo, quando hanno capito che l'alternativa era andare a lavorare nei ristoranti, perché poi alla fine, voglio dire, era quello, perché dovevano andare a servire, invece che su un aeroplano, dovevano poi andare a servire in qualche altro locale, hanno accettato, forse, come è giusto che fosse, hanno capito che forse c'era anche da andarsi a rimboccare le maniche. Questi qui invece, siccome sanno che in qualsiasi momento si ricollocano sul mercato, hanno praticamente la possibilità e la forza contrattuale per arrivare fino in fondo. Peccato che stavolta non c'è ritorno, perché il fallimento non vuol dire un qualcosa che poi ci mettiamo d'accordo. Il fallimento, per come è strutturato nella nostra legislazione italiana, colpisce duro. Beh, sì, bisognerà vedere questa questione di cui parlavamo prima con il professor Ichino della cassa integrazione, se davvero si andrà fino in fondo. Io non credo, perché già ci sono state delle eccezioni molto favorevoli ai lavoratori del trasporto aereo. La realtà, e la ringrazio Paolo per questo suo intervento, è una sola, secondo me, naturalmente, è che i dipendenti dell'Alitalia, e in questo caso direi i dipendenti tutti o comunque le loro rappresentanze sindacali per tanti anni, anche adesso, non è che vogliono un salvatore, un privato che mette soldi, che investa con un piano industriale, naturalmente alle condizioni contrattuali che vuole questo privato, e già la CAI ne aveva fatte di concessioni rispetto all'ipotesi iniziale. Non vogliono nessun salvatore, o ne vogliono uno solo, che è lo Stato, che naturalmente possono ricattare in tutti i modi. TG1 titoli. Giallo su 5 turisti italiani rapiti in Egitto e forse portati in Sudan. Si parla di liberazione, ma il Cairo non conferma. All'Italia subito un piano finanziario, stop ai voli, dice l'ente per l'aviazione civile. Piloti e dipendenti parlano di una loro cordata. La CEI, troppo pessimismo sull'Italia, gli emigranti sono fratelli. Cauta apertura al testamento biologico, ma senza abbandono terapeutico. I casalesi come terroristi, arrestato uno dei presunti killer della strage di Castel Volturno, domani la decisione sull'invio dei militari. Latte tossico in Cina, almeno 53.000 bambini colpiti, Bruxelles assicura nessun pericolo in Europa. La maggioranza delle donne italiane si sente stilista di se stessa, interpreta la moda con creatività, gli oggetti del desiderio restano tacchi alti e jeans. Allora, perché non abbiamo parlato oggi, anche se ci sono i titoli dei principali TG, dell'avvertimento dell'ENAC questa mattina nella trasmissione Viva Voce da parte di Riggio, poi c'è stata una precisazione durante la giornata, 8 giorni il termine massimo per la presentazione di un piano, altrimenti verrà revocata la licenza. Perché insomma mi pare una cosa abbastanza scontata da questo punto di vista, anche se i tempi sono importanti. E l'altra cosa è diciamo quello che è stato pubblicato sul sito dell'Alitalia da parte del commissario Fantozzi, cioè la richiesta di interessamento. Se c'è qualcuno che vuole intervenire su Alitalia lo può fare fino al 30 settembre. Anche qui siamo, la notizia era stata salutata come una grande novità, in realtà siamo nel campo della normale gestione di un'amministrazione straordinaria. Bene, eccoci qui di nuovo in diretta alle 20:09 in questo momento, 800 24 00 24, sempre il numero verde per chiamarci fino alle 20:45. Claudio da Roma, buonasera Claudio. Sì, buonasera. Io volevo soltanto... Claudio, se lei abbassa il volume della radio, credo che sia in macchina, sentiamo tutti meglio, grazie. Sono in pullman. Volevo dire soltanto questo. Io, come tanti altri miei colleghi, siamo rimasti un po' meravigliati da tutta questa cosa dell'Alitalia. Suoi colleghi, che significa? Colleghi, che significa che noi siamo quella categoria che trasporta i vari piloti e hostess all'interno di, diciamo, da Roma Centro a Fiumicino. La sentiamo male, ci ricolleghiamo subito con lei, naturalmente, perché la sua testimonianza è interessante. Gaetano, provincia di Treviso. Sì, buonasera, lei Cruciani. Io mi faccio un pochino, beh, intanto sono pienamente d'accordo con Turani quando dice che l'Alitalia era già da chiudere, fallimento già da anni. Sono d'accordo anche con l'intervenuto di prima, un professore che diceva appunto che chi rifiuta un posto di lavoro perde poi tutti i benefici, e anche lì siamo d'accordo. Vorrei solo puntualizzare una cosa, c'era qualcuno, forse anche lei. Scusi Gaetano, esiste il, sì? Esiste il Ku Klux Klan a Treviso? Lei ha notizia dell'esistenza di una setta di bianchi che vogliono eliminare i neri? No, non mi risulta questo. No, è una semplice informazione, la ringrazio. Non lo nego, ma a me non risulta. Va bene, d'accordo. Prosegua. Niente, sul fatto della validità o meno di aprire questa possibilità ad altre compagnie straniere di rientrare. Sì. Penso che adesso, visto che il carrozzone è stato depurato, o sembrerebbe depurato un pochino, da tanti pesi, da tanti rami secchi e soprattutto dai debiti, penso che le compagnie che prima nicchiavano un pochino o hanno anche rifiutato, adesso, trovando solo polpa, potrebbero sì essere interessate. Solo che purtroppo rimane poco tempo, ed il fatto, questo doveva essere fatto forse prima. Questi sono i nodi che vengono al pettine, Gaetano. Io credo che nessuna compagnia straniera oggi si metta al tavolo per trattare con questi sindacati, al massimo compreranno dei rami d'azienda, però insomma qui siamo nel campo delle previsioni, questa è la situazione. La ringrazio. Marco da Trento, buonasera. Intanto un ascoltatore mi scrive andare a vedere un articolo scritto dal Venerdì di Repubblica venerdì, naturalmente venerdì, uscendo il venerdì, proprio venerdì, l'abbiamo ripetuto venerdì 3-4 volte, forse facciamo 5, insomma il supplemento di Repubblica, in cui ci sarebbe la verità sull'Italia. L'Italia dalla DC alla Lega, storia di un grande buco, ecco chi lo ha scavato. Una volta era la diplomazia che ci faceva stimare all'estero e fino a un decennio fa anche un'azienda che funzionava bene. Che cosa è successo alla nostra compagnia di bandiera? Chi è riuscito a iniettare il virus del disastro? E soprattutto, come è stato possibile mettere insieme 5 miliardi di debito? Caro ascoltatore, me lo leggerò questo articolo di Alberto Statera, peraltro apprezzato giornalista di Repubblica, anche se poi insomma la verità in tasca non ce l'ha nessuno. Marco, prego. Buonasera, signor Cruciani. Dica. Senta, io sempre riguardo all'Italia. No, non riesco a capire, anche dopo aver sentito quello che mi ha fatto sentire lì dell'intervista del signor Berti, mi sembra, giusto? Eh sì, è la novità di oggi, se vogliamo, in questa follia di Alitalia c'è anche pilota, il capo dei piloti, pilota non troppo perché vola poco, ma insomma, il capo del sindacato dei piloti, il quale dice, per chi non l'avesse ascoltato ancora, dopo lo faremo riascoltare per l'ennesima volta, insomma, i piloti pressati da questa vicenda sindacale, eccetera, eccetera, ci potrebbero essere problemi per la sicurezza in Italia. Così, così vanno le cose. Non riesco a capire, cioè, a parte che un rappresentante sindacale non deve permettersi di dire una cosa del genere, in modo più assoluto, se la tenga per lui che è meglio, ma poi non riesco a capire, pensando al gioco degli scacchi, non riesco a capire qual è la mossa che hanno fatto, cos'è che vogliono ottenere. Cioè, perché realmente, sapendo la situazione dell'azienda, quello che gli era stato offerto, secondo me... Io adesso non sono dell'Alitalia, quindi mi scuso con i dipendenti se dico una cosa sbagliata, però secondo me è un'ottima offerta che hanno avuto, perché io a parità nella mia azienda una cosa del genere accetterei, perché voglio dire, se sai che l'azienda sta male, che bisogna risanare, che bisogna metterla a posto, ma a questo punto si meritano che l'Alitalia fallisca, proprio fallisca, e speriamo che poi riesca a esserci comunque una compagnia di bandiera italiana, altrimenti cosa si può dire a un certo punto? Cos'è che si può dire? Beh, infatti non bisognerebbe dire più nulla, bisognerebbe solamente aspettare, ma non è che si vuole qui fare il tifo naturalmente per il fallimento dell'Alitalia a tutti i costi, ma quando le cose sono queste mi sembra l'unica strada, l'unica soluzione seria, lineare, limpida. La ringrazio, Marco. Andrea da Milano, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Dunque, volevo dire questo. Credo che qualsiasi azienda che oggi voglia acquistare Alitalia sia da considerare assolutamente come un pazzo che è appena scappato da un manicomio. Questo perché, vedendo la situazione dell'Italia, vedendo la suddivisione dei sindacati, credo che sia chiaro a tutti che è una società assolutamente ingestibile, che negli anni ha imparato a fare autogestione e che non accetta di fatto che ci sia qualsiasi tipo di imprenditore che intenda dire loro quello che devono fare e come devono lavorare. Quindi, onestamente penso che non si affaccerà nessuna compagnia straniera, proprio alla luce di quello sindacale fino ad oggi, e secondo, quindi penso sostanzialmente che il fallimento sarà l'unica soluzione dalle ceneri del quale sarà possibile forse rifare qualcosa. Vabbè, vedremo, naturalmente la sua è una previsione. Intanto il Financial Times dice e scrive anzi che per Berlusconi si tratta di un'umiliazione personale questa di Alitalia. Il premier voleva l'italianità ma la compagnia fallirà. Anche qui siamo nel campo delle previsioni, però insomma mi sembra che si tratti dal punto di vista politico di una considerazione su Berlusconi, sull'umiliazione personale che va letta. Però 6 mesi fa, scrive nel commento il Financial Times, l'imprenditore diventato politico ha bloccato un'offerta di Air France KLM e ha condotto la sua campagna elettorale sulla promessa di trovare un compratore patriottico, e dopo essere stato eletto lo ha puntualmente fatto, cambiando qualche legge qui e là e porgendo su un piatto d'argento un'Alitalia ripulita e senza debiti alla CAI. Questo gruppo di imprenditori e banchieri italiani sono stati successivamente soprannominati capitani coraggiosi per aver adempiuto al loro dovere patriottico e aver messo sul piatto fino a 1 miliardo di euro. Ora anche il coraggio della CAI ha fallito. E rumorose fino alla fine, solo 3 delle 9 organizzazioni sindacali dell'Alitalia hanno accettato l'offerta, che implicava orari più lunghi e il taglio di circa 3.000 posti di lavoro, ma che assicurava anche una compagnia aerea redditizia. La CAI ha abbandonato la sua offerta e ora tutti i 19.000 lavoratori dell'Alitalia potrebbero perdere il posto di lavoro. Questa è la ricostruzione del Financial Times e anche lo sbugiardamento, secondo il Financial Times, di Berlusconi. Allora, eccoci qui, andiamo. Giovanni da Bologna, buonasera Giovanni. Buonasera dottore, le do il mio pensiero. Io penso che assieme al fallimento dell'Alitalia, molto probabile, stiamo assistendo alla morte del buonsenso. Mi spiego meglio. Sì. Il fallimento dell'Alitalia vuol dire mettere sulla strada, anche oltre ai dipendenti dell'Alitalia, un gran numero di uomini che lavorano per l'indotto. Sì. Questa morte del buon senso, secondo me l'Alitalia quando fallirà anche, fra virgolette, il sindacato che non ha sposato Alitalia, cioè la CGIL. Non mi meraviglia tanto. Sì, non che le altre sigle sindacali nel passato abbiano accolto a braccia aperte i piani di ristrutturazione che sono stati proposti. Certo. Insomma, adesso si dà addosso alla CGIL, no, perché ha rifiutato l'accordo rispetto alla CISL, alla UIL, per esempio, o insieme naturalmente ad altre organizzazioni sindacali. Ma insomma, non è che nel passato le altre sigle fossero state così pronte ad accogliere un piano di ristrutturazione, viste le condizioni in cui era l'Italia anche qualche anno fa. Sì, però materialmente in questo momento io non ho mai fatto politica, quindi non sto esprimendo dei pareri politici. Io sto solo dicendo, come lavoratore che lavoro da 36 anni, che se io fossi costretto ad accettare un qualche cosa di meno e di, diciamo, anche fastidioso per la mia professionalità, perché comunque il mercato purtroppo ha dettato delle regole, io in questo momento dovrei accettare per forza. Ecco, questa è una maccheroni la sera sulla tavola. Questa è una considerazione molto interessante, Giovanni, l'ultima che ha fatto. La giro subito ad Alessandra Tazzioli, che saluto, buonasera. Mi sente? Sì, la sento. Eccoci qui, Alessandra Tazzioli, che è assistente di volo, capo cabina di prima di Alitalia, da 21 anni nell'azienda, è stata anche sindacalista, ha sentito questo ascoltatore da Bologna, il quale ha detto io insomma se mi trovassi in una situazione di questo tipo accetterei anche una riduzione dello stipendio, perché insomma il mercato ha deciso così, la direzione in cui è andata la compagnia negli ultimi anni, e non facciamo qui la storia delle responsabilità, è andata in questo modo. Come risponde a questo ascoltatore? Perché io ho un po' l'impressione, signora Tazzioli, sì, che l'impressione in questi giorni di conduzione radiofonica in cui ci chiamano molte persone è che si sia scavato quasi un fosso, e non credo che sia stata la stampa a scavarlo, tra i lavoratori dell'Alitalia e il resto del paese. Cioè il resto del paese vede i lavoratori dell'Alitalia come qualcosa di estraneo, di diverso e forse anche di privilegiato, ma non stiamo parlando naturalmente di assistenti di volo né di altre categorie. Però si ha quasi l'impressione che, mentre per altri lavoratori è normale che ci siano crisi, perdita del posto di lavoro, eccetera, eccetera, per i lavoratori dell'Alitalia tutto questo non può essere normale, non viene accettato. È così? Sì, è così anche perché è molto difficile capire quello che è il nostro lavoro. Adesso la situazione è molto confusa e molto ingarbugliata, c'è il fronte del sì e il fronte del no, c'è chi dice meglio poco ma qualcosa che, piuttosto che niente e rimanere a casa. Oltre a noi, io sono assistente di volo appunto da 22 anni, ci sono delle persone, degli operai che lavorano in hangar, che sono le nostre tute verdi, che sono anche loro dei professionisti, a cui non possiamo chiedere ulteriori sacrifici. Se fosse stato per lei, avrebbe firmato quel contratto quel giorno? Io subito quel giorno probabilmente non l'avrei firmato, però attualmente non ci sono molte chance diverse da quello che è. Io quello che lei ha detto, mi scusi, mentre i colleghi facevano festa e abbiamo visto tutte le scene, io ero chiusa in casa a piangere. Esatto, sì, perché io non vedo assolutamente il motivo, quando una trattativa fallisce, e da ex sindacalista posso dire che è molto difficile fare queste trattative, indubbiamente è difficile, però mettere d'accordo tutti è altrettanto difficile, così come ritengo oltraggioso comunque vedere festeggiamenti e canti, cori, eccetera, quando una trattativa fallisce. Bisogna mettersi insieme e cercare di fare chi un passetto avanti, chi un passetto indietro, comunque. Però scusi, lei mi ha detto che non l'avrebbe firmato quel contratto. Allora, in quel momento non avrei firmato perché era notevolmente penalizzante nei nostri confronti, parlo soprattutto degli assistenti di volo. Sì. Però a questo punto io capisco che per altri lavoratori sia difficile capirci e comprenderci, perché veniamo visti anche come assistenti di volo come una casta un pochino viziata. Invece bisogna anche considerare che è una vita di sacrificio, cioè i figli nostri noi non li vediamo crescere, si saltano le festività, i compleanni, tante cose. Anche se è previsto per il fatto che uno fa questo mestiere. Ma certamente è previsto, e devo dire che io questo mestiere l'ho scelto e non è stato un ripiego 22 anni fa. Io volevo lavorare all'Alitalia, per cui all'Alitalia ci tengo, e so benissimo quanto i colleghi del sindacato, sto parlando degli assistenti di volo, sì, soprattutto, sì, stanno facendo fatica a cercare di tenere in piedi questa situazione. Ma c'è stato un passo indietro, che lei sappia, negli ultimi, abbiamo sentito l'AMPAV, ma non è che gli assistenti di volo siano solo l'AMPAV. Indietro da parte del sindacato forse ci sia, e lo speriamo tutti. Speriamo che ci sia anche un passo avanti, se ancora c'è la possibilità e un'apertura di un passetto avanti da parte della CAI o di chi sia. Quello mi sembra difficile, quello mi sembra difficile, perché hanno detto che insomma, certo, la cosa è quella, e già hanno concesso troppo rispetto al piano iniziale, che era ancora più penalizzante, tra certo, virgolette. Sicuramente, no? Siamo in un tunnel di cui non vedo la fine. Rimango molto attonita anche alle dichiarazioni del comandante Berti, mi dispiace, sì, perché sicuramente so per certo che è una persona assai in gamba, ma che venga detto, spero che sia stato ben interpretato da parte della stampa e delle radio, che sono a rischio i voli dal punto di vista della sicurezza, questo non lo tollero neanche, questo assolutamente, perché i problemi, io sono stata addestrata da 22 anni che i miei problemi, sia familiari che rinnovi di contratti eccetera, vanno tenuti a casa. Sul lavoro si deve essere dei protagonisti. Ma non c'è dubbio. Senta, le chiedo una cosa, chi è che esultava a Fiumicino, una minoranza o una maggioranza, o rappresentavano la maggioranza, diciamo, dei lavoratori dell'Alitalia? No, l'altra settimana una minoranza, direi, io penso e spero che sia una minoranza, perché secondo me in ogni caso, ripeto, non c'è niente in questa situazione da esultare, cioè semmai sarebbe stata forse la possibilità di trovare altre soluzioni in quel momento, quindi anche se non si è d'accordo con quello che veniva proposto dalla CAI, E poteva benissimo essere, diciamo, un motivo di soddisfazione per alcuni, non c'era motivo di fare queste manifestazioni da stadio, mi consenta. Anche se oggi le stesse manifestazioni e cori contro Berti e Notaro, perché sono i due rappresentanti sindacali dei piloti, le abbiamo viste e sentite anche dal cosiddetto fronte del sì, diciamo, in alcune manifestazioni chiassose a Roma con cori anche piuttosto sgradevoli, andrebbero evitate queste cose, no? Forse tutto andrebbe evitato. Le cose sgradevoli andrebbero sempre evitate. Chiaramente che un coro fatto da una categoria privilegiata ha sull'opinione pubblica un certo rebound, un coro fatto dal personale degli hangar, sì, del catering, che rischia veramente di mandare in crisi delle famiglie e di buttare via un futuro, è un'altra cosa. Forse, dice, certo, senta, mi sa dire in un secondo e poi la lascio, quant'è il lordo, se vuole naturalmente, quant'è il lordo della sua busta paga, all'ordo, diciamo, al mese? All'ordo al mese noi siamo pagati ormai a cottimo in base alle ordini. No, ma lei qual è il suo lordo? Il mio lordo, più o meno, medio, in busta paga mediamente è un 3.500 euro. 3.500 euro lordi al mese? Sì, esatto, tolte tutte le deduzioni abbiamo un netto di 2.500. La ringrazio, buona serata. Prego, grazie, buonasera. 20:27:15, dove andiamo? Andiamo prima della borsa ad altri ascoltatori, naturalmente, che erano in attesa di intervenire, andiamo a Napoli, Raffaele, eccoci qui Raffaele. Buonasera dottor Cusani. Sì, allora, noi Cusani abbiamo ascoltato... era un altro, mi scusi se la correggo, Cruciani naturalmente, Cruciani, uno dei protagonisti di Tangentopoli, per carità, insomma, non sono all'altezza. È vero, no, ma per carità. No, allora, ma Sergio Cusani è una bravissima persona, però insomma. Allora dottore, noi abbiamo ascoltato un po' tutti quanti, eccetto gli eventuali clienti. Io praticamente sono un figlio di imprenditore napoletano, effettuo 3 voli settimanali da circa 7-8 anni. Non ho mai preso un aereo all'Italia. Ma perché? Perché il prezzo è 3 volte superiore a quello che offre il mercato. Anche se, Raffaele, devo fare notare che negli ultimi giorni sembra che volare all'Italia sia un affare. Leggo un articolo oggi da Repubblica in cui, siccome c'è una drastica riduzione di prenotazioni, pare che se uno si mette a prenotare, naturalmente bisogna avere fiducia, un volo tra una settimana e 10 giorni, lo si paga molto meno rispetto a un volo di un'altra compagnia, perché gli aerei sembrano essere vuoti o comunque meno pieni del solito e dunque il prezzo dei biglietti diminuisce. Dottore, questo sicuramente negli ultimi periodi, però io mi faccio una domanda, forse perché l'amministratore delegato era il più pagato di una compagnia più indebitata del mondo, o forse perché l'hanno spolpata viva? Probabilmente quando si parla di compagnia degli italiani, una compagnia di bandiera, sicuramente non è la mia compagnia, sarà la compagnia forse dei politici e dei loro familiari, che può essere con agevolazioni fiscali. Può essere, sono fiscali per l'Italia, no, comunque insomma. Raffaele, il fatto che molti italiani non riconoscono l'Italia come la propria compagnia, secondo me è abbastanza corretto. Dove andiamo? 20:29, sempre per parlare di italianità. Eccoci qui, 8:30, conduce Lilli Gruber, sentiamo. Collegarmi con il professor Tito Boeri, economista, docente alla Bocconi. Professor Boeri, ma come se ne esce da questo pasticcio dell'Alitalia, visto che di oggi anche la notizia dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, che ha dato tempo sino a giovedì per presentare un piano finanziario credibile, pena la revoca della licenza di volare? Guardi, l'altra novità di oggi è che finalmente il commissario Fantozzi sta cercando in qualche modo di avere delle manifestazioni di interesse da parte di qualcuno, di un soggetto diverso dalla CAI. È una mossa tardiva che avviene 24 giorni dopo la sua nomina e tra l'altro con dei tempi troppo lunghi, perché chiede una manifestazione generica di interesse entro il 30 settembre. Bisognerebbe chiedere dei piani adesso, perché davvero non c'è tempo da perdere. Però d'altro canto, a fianco di questa richiesta, c'è una ulteriore posizione del governo che dice: noi trattiamo soltanto con la CAI e con italiani. Allora questo vuol dire di fatto impedire dire che altre compagnie aeree, investitori stranieri si interessino davvero alla nostra compagnia e giocano un ruolo attivo. E quindi se dovesse continuare a tenere questa posizione molto dura, soprattutto di fronte al fatto che gli imprenditori nella cordata della CAI devono a questo punto tornare nei loro consigli, devono rendere conto di quello che stanno facendo, io credo che a questo punto si andrebbe diritti verso la liquidazione della compagnia. A quel punto qualche compagnia internazionale, la Lufthansa, prenderà i nostri spazi aerei, i nostri slot, praticamente portandoli a casa a costo zero. Quindi io credo che l'appello che bisognerebbe fare in questo momento è al governo è a dire chiaramente che noi siamo interessati anche ad acquirenti non italiani, perché altrimenti si va diritti verso la liquidazione di Alitalia e a quel punto davvero cediamo a Lufthansa e ad Air France il nostro mercato. Professor Boeri, il ministro Sacconi ci risponderà subito. Sentiamo invece subito l'altra parte della barricata. Valentina Leone, primo ufficiale, pilota dell'Alitalia. Vabbè, questo è il nuovo 8 e mezzo, conduce Lili Gruber insieme a Federico Guiglia che avete appena sentito. Boeri fa riferimento a che cosa? Fa riferimento ad alcune dichiarazioni del governo, cioè vorrebbe Boeri che il governo esplicitamente dicesse cerchiamo anche compratori stranieri, ma in realtà Fantozzi lo ha già detto, che non è che siano respinte al mittente le dichiarazioni di interesse ovunque, cioè quando eventualmente vi fossero di stranieri. Oggi Maroni ha detto non esiste soluzione alternativa accordata a CAI, ma questo lo dicono un po' tutti sulla base della realtà, non sul fatto che la respingono in toto. Io credo che se ci fosse un interesse vero, reale di Lufthansa o di Air France a prendere l'Italia adesso, nemmeno Berlusconi potrebbe respingere questa ipotesi, ma questa è una mia impressione. Forse Sacconi risponde però a Boeri, sentiamo un attimo sempre 8 e mezzo. Sindacali, come ci spiega nel suo punto Paolo Pagliaro, vediamo. Va bene, il punto di 8 e mezzo, magari cercheremo più avanti una risposta di Sacconi sugli stranieri, è un tema sempre interessante. Emanuele da Roma e gli altri ascoltatori in onda. Emanuele, buonasera. Buonasera a lei Cruciani, ben trovato. Dunque io parto da una considerazione molto semplice. Mi domando quando il comandante Berti trovi il tempo di partecipare alle trattative, visto che ormai è una star della televisione e della radio. Però è una considerazione, se vuole, banale, però insomma. È una considerazione assolutamente non banale, perché l'abbiamo detto quasi in apertura di trasmissione, ormai 2 ore fa praticamente. Insomma, Berti, tra l'altro, ogni tanto sostiene di non avere spazio sui media o che le ragioni dei piloti non hanno abbastanza spazio sui media, e questo mi appare incredibile. Questa sera 8 e mezzo, ma ormai è invitato ovunque, come giusto che sia, magari. E però, insomma, per chi come me fa il suo stesso mestiere, cioè il giornalista, e l'ascolta quasi tutte le sere, insomma, mi è sembrato un po', insomma, una presa di posizione strana, però ci sono tante cose strane in questo periodo. Infatti. Comunque poi quello che lui ha detto oggi alla collega, che non ho capito bene chi sia, sul siete voi che dovete stare attenti. Sì, su Sky TG24 e c'era, credo, in conduzione la Paola Saluzzi, sì. Ecco, figuriamoci, a me è sembrata una minaccia. Prima Ichino ha detto che era una cosa così un po' grave, abbastanza grave, una caduta di stile. A me sembra, non so, come quando il medico, l'anestesista, dice guardi io sono senza contratto, la sanità pubblica italiana, sappiamo che è successo spesso, non so se però la risveglio poi. Cioè, una cosa un po' così, dice attenzione perché i piloti sono sotto pressione, può darsi che questo aereo non arriva a destinazione. Ma che razza di discorso è? Io ricordo che quando c'è stata la vertenza dei taxi, qui a Roma, io la chiamo a Roma, i taxisti cos'è che hanno fatto? Non è che hanno preso e improvvisamente hanno detto lei deve andare da una parte, io la porto dall'altra, oppure la faccio scendere a metà. Si sono messi d'accordo, quando scattava l'orario hanno cominciato a fare sciopero. Punto, ma non è che ti lasciano per strada. Ho usato il paragone del medico prima, non a caso, a mio avviso il pilota è uno al quale tu affidi la vita quando sali lì sopra. Sì. Se tu sali lì sopra è perché ti fidi di quella persona, perché fanno tante ore di volo, perché c'è la passione, perché c'è quello che ha detto prima l'assistente di volo che ha parlato pochi minuti fa, quella persona con 21 anni di servizio, cioè fai un lavoro particolare, ci credi. Se poi dopo c'è un giorno che non ti va bene come sta andando la tua vertenza sindacale e vai in televisione, non è che l'hai detto a degli amici al bar, dici beh, ma voi dovete stare attenti. Io credo che lei tanto lo farà riascoltare purtroppo per tante volte. A me sembra una cosa fuori dal mondo. Io credo che... Assolutamente, Emanuele, la ringrazio. Io non so se Berti, che è ospite questa sera 8 e mezzo, abbia risposto su questo, abbia dato la sua versione, perché insomma, secondo me a questo punto... magari la stampa ci sorvolerà su questo, perché se ne dicono tante. e si sorvolerà sopra queste dichiarazioni di Berti. Andiamo a Daniela da Roma. Buonasera Daniela, andiamo più velocemente buonasera. Perché dobbiamo concludere, grazie. Sì, sì, rapidamente, io volevo soltanto parlare, visto che appunto sono madre di un assistente di volo e sono figlia di un vecchio comandante che ormai è morto da tempo, sì, dall'Italia. Sì. Che l'offerta della CAI io l'ho saputo 3 giorni fa perché non è uscita da nessuna parte, né giornali, né radio, né televisione, è altro che capestro, perché si tratta di azzerare l'anzianità, azzerare le competenze finora acquisite, prendere un euro virgola 86 centesimo giù di lì per ogni ora di volo e soprattutto oltre gli esuberi che se ne vanno, per chi resta ripassare le selezioni. Ma una persona che ha 20 anni, 30 anni di Alitalia come assistente di volo, non so se questo è programmato anche per i piloti, ma non credo che i piloti andranno a fare un'altra volta. Daniela, ho capito, condizioni capestro secondo lei. Guardi, io i dettagli come ce li ha spiegati lei non li conosco, sono uscite tante cose sul nuovo contratto, in realtà nessuno lo conosce fino in fondo, lo conosce bene fino in fondo. Se fossero queste le condizioni non ci sarebbe nulla di scandaloso, si riparte con un'altra compagnia, non, le condizioni è questo che non si vuole capire, anche se queste condizioni che lei ci ha detto ci fossero, io ci credo se lei me lo dice che ci sono, e dov'è lo scandalo? Lei dice non si cancellano 20 anni di anzianità, ma 20 anni di anzianità in un'altra compagnia, in un altro contesto, con un'altra azienda, non con un'azienda nuova che nasce. C'è un'azienda nuova che nasce, punto. È questo che non si vuole comprendere, non si vuole afferrare fino in fondo. Va bene, Roberto da Milano, ma dobbiamo chiudere. Roberto, mi dica. Allora sono velocissimo, volevo intervenire sulle dichiarazioni di Berti, ma visto che abbiamo poco tempo, sì, voglio cambiare argomento. E allora, rimandiamo a domani, Roberto, rimandiamo a domani, la richiamiamo domani se lei ha tempo, se lei ha tempo col suo numero di telefono, quando vuole in trasmissione. Ci sentiamo domani, 18:30.